solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening. I nomi delle cose, la trasmissione della coordinamenta femminista e lesbica sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. This is not really happening. Ciao a tutte e ciao a tutti. Apriamo con un pensiero di Colette Guillaumin. Dietro l'idea di differenza si cela la dominazione. Ciao a tutte e ciao a tutti di nuovo. Questa trasmissione è un approfondimento con un argomento unico. L'abbiamo intitolata Stupri di pace, stupri di guerra. In effetti è il terzo approfondimento di una serie che stiamo portando avanti. Il primo l'abbiamo già fatto e siamo qui con Roberta, che praticamente ha fatto già con noi il primo approfondimento, e che speriamo tanto che poi queste cose che abbiamo trattato nel primo, che abbiamo trattato poi va bene nel secondo sugli stupri di guerra, in questo terzo sul secondo stupro come arma da guerra, è diverso da questo qua. Da questo qui, stupri di pace e stupri di guerra, speriamo tanto che poi metta tutto per iscritto, perché è un faremo argomento. Qualche presentazione. Faremo qualche presentazione. Intanto ti salutiamo, ciao Roberta. A tutte, ciao a tutti. Grazie di essere qui con noi. Allora, il primo approfondimento che abbiamo fatto a febbraio ha trattato in effetti in generale su che cos'è il concetto di stupro, che cos'è lo stupro, il concetto di stupro attraverso i vari momenti storici, come lo stupro è stato vissuto in varie epoche. Correggimi se sbaglio, Roberta, se ti ricordi tu qualcosa. Sì. Ecco. E comunque troverete il primo approfondimento sul nostro blog, anzi insieme a questa trasmissione caricheremo anche le altre puntate, così potrete avere il quadro completo e sentirle tutte quante. Legs of steel, leather on her arms. Take it, man, about to die. A life for a life, an eye for an eye. In the chair, stop the murder, tear the crimes away. Only killing shows, killing those in pay. Yes, that's the kind of loyalty. Even though we make mistakes, sometimes send the wrong woman to the chair. In the death row, waiting for their time. In questi giorni poi è rimbalzata una notizia particolare, che è quanto mai di attualità rispetto a un discorso di questo tipo, e che è questa: Bolzano, una violenza contro una trans nel carcere di Baldernic. Allora, questa violenza, che è stata questa violenza sessuale nei confronti di una detenuta, che è ancora più grave di un soggetto all'interno del carcere, non è stato non è stato propagandato il nome della trans, per fortuna, però assoluto silenzio anche per quanto riguarda l'identità dell'agente di polizia penitenziaria. Allora, poi nel medesimo carcere c'era già stato un precedente, qualche anno fa un'altra trans aveva denunciato. Allora, a questo punto ci è venuto in mente proprio il discorso che introdurrà Roberta adesso, che di fatto il rapporto tra stupratore e vittima è sempre un rapporto di dominazione. Sì. Sì, diciamo che noi abbiamo chiamato questa puntata appunto stupri di pace e stupri di guerra, proprio per togliere questa etichetta di questo carattere di eccezionalità dello stupro in guerra, perché viene appunto considerato un fenomeno che si verifica nel momento in cui vengono meno i freni inibitori che invece sussistono in tempo di pace. In realtà non è affatto eccezionale rispetto alla quotidianità, ma secondo me costituisce un'estremizzazione, scusate, violenta di quello che avviene in tempo di pace. È solo la forma più brutale di una violenza che comunque avviene tutti i giorni, e, perché comunque tutti i giorni le donne comunque sono oggetto di vanto narcisistico per gli uomini, e sono viste ancora come una proprietà, come un accessorio dell'uomo. E in guerra sì, chiaramente si estremizza quella che è la suddivisione dei ruoli. Se vogliamo analizzare la cosa da un punto di vista sociologico, ecco, più sociologico, ecco, negli scenari di guerra alla donna viene attribuito il classico ruolo passivo, che è quello della vittima, di colei che subisce, mentre all'uomo, al genere maschile, viene attribuito il ruolo di combattente, quindi un soggetto attivo. Tuttavia la donna non è che viene esclusa dalla guerra, in realtà viene inclusa come vittima, gli uomini tendono a, a escludere le proprie donne, ma a includere quelle degli altri quando si tratta di farne un trofeo di guerra. E, fanno parte del bottino, in pratica. Sì, sì, sì, sì. E, ecco, considerando tutto questo, non possiamo non pensare a, alle famosissime dichiarazioni di Ayelet Shaked di quest'estate, insomma della scorsa estate, che poi dove... Ayelet Shaked è una esponente importante del Parlamento israeliano, diciamolo, sì, se qualcuno se lo fosse dimenticato, ecco. Cioè, quindi non è una figura qualsiasi, ed è una donna. Esatto. E, appunto, perché il conflitto in Palestina, la dominazione in Palestina, è un esempio di conflitto dove la componente razziale è molto forte. E in questi tipi di conflitti viene esacerbata la violenza contro le donne. E, se ci ricordiamo, le parole di Shaked erano queste: incitava praticamente a uccidere tutte le donne palestinesi perché non potessero mettere al mondo altre serpi. Sì, a distruggere piccoli serpenti. Piccoli serpenti. E il sangue di tutti i palestinesi doveva essere praticamente versato per lavare quello dei soldati israeliani morti e dei civili israeliani morti nei cosiddetti attacchi terroristici dei palestinesi, insomma. E non ha fatto un accenno diretto allo stupro. Però, anche se non l'ha nominato formalmente, la cosa a cui immediatamente pensiamo quando si dice bisogna uccidere tutte le donne, ci vengono in mente tutti quei conflitti dove le donne sono state proprio stuprate, uccise, punite proprio per la loro capacità riproduttiva. Quindi sono dichiarazioni molto gravi. Poi le dichiarazioni di Shaked sono state seguite da altre dichiarazioni di altri esponenti sì, professori, cioè professori, diciamo intellettuali, sì. Professori. Sì, sì, sì. Uno di questi è Kedar, che durante un'intervista radiofonica, una trasmissione radiofonica, proprio diretta, sembrava quasi aver interpretato in maniera esplicita le parole implicite di... poi manco tanto implicite di Ayelet Shaked. Diceva: dobbiamo usare lo stupro come arma di dissuasione, dobbiamo fare in modo che ogni terrorista catturato sappia che nel momento in cui viene preso automaticamente la madre o la sorella verrà stuprata, ecco. Cioè, quindi dopo queste, cioè le parole della Shaked, come pure tutte le dichiarazioni dei vari personaggi di spicco di Israele, non sono state minimamente commentate da tutte le cosiddette femministe Molto poco. Non strane, non solo. Molto poco. Nel senso che la campagna contro Boko Haram per salvare le 500 ragazze ha avuto un impatto mediatico non indifferente. Però su tutta questa polemica della Shaked ha visto soltanto un seguito online, ma non c'è stata la campagna martellante che quotidianamente ci viene propinata a proposito di Boko Haram, per altre cose, certo. Che per carità non vogliamo sminuirle quelle violenze, però il punto è che il tema della violenza sulle donne e anche più in generale quello dei diritti umani viene usato come grimaldello per portare avanti determinate politiche imperialiste. Questo è il punto. La Boldrini, per esempio, che si è occupata tanto di migranti, ha ricoperto incarichi presso l'ONU, si è occupata di rifugiati e tutto, però qui a proposito di ecco, c'era Moshe Feiglin, un altro bel imposto che invocava la pulizia etnica in Israele e invocava la costruzione di campi profughi sul Sinai dove ammassare tutti i palestinesi che non avessero accettato l'immigrazione. E qui anche qui la Boldrini silenzio. E tant'è vero, noi abbiamo aperto questa trasmissione con una frase di Colette Guyomène, perché Colette Guyomène nei suoi scritti dice sempre che c'è un legame fortissimo tra il sessismo e il razzismo, perché il sessismo e il razzismo camminano su percorsi mentali molto simili. Sì. Poi volevo aggiungere una cosa. La Boldrini, va bene, fa parte delle femministe istituzionali che stanno al governo, ok. Però mi ha colpito qualche giorno l'articolo di Lucia Annunziata di qualche giorno fa a proposito della liberazione di Greta e Vanessa e tutte le polemiche che sono seguite al fatto sui soldi che sono stati spesi per il pagamento del riscatto. In quell'articolo Lucia Annunziata testualmente dice: qui non si tratta di Islam contro occidentali, qui si tratta di un esercito di islamisti radicali che combatte per il dominio di tutti, l'Islam innanzitutto e noi Occidente come prezzo laterale. Le donne che gli islamisti violentano, uccidono e fanno schiave non sono solo le donne cristiane dell'Iraq e della Siria, le donne curde, le yazide, sono soprattutto le stesse donne islamiche che appartengono a una versione diversa e dunque nemica della loro religione. Cioè qui definire l'Occidente come attribuire un ruolo totalmente secondario all'Occidente mi sembra anche questa una cosa molto grave, perché non si parla minimamente del ruolo che ha avuto l'Occidente, le potenze occidentali, la responsabilità che hanno avuto nella costituzione di questi gruppi estremisti. Certo, diciamo, infatti noi lo diciamo sempre, spessissimo, che l'Occidente ha evocato dei mostri che poi gli si ritorcono contro e che poi anche usa, cioè è ambivalente rispetto, no? Da una parte gli si ritorcono contro, dall'altra parte li usa e allo stesso tempo li ha evocati lui. Noi pensiamo all'Afghanistan, pensiamo alla destabilizzazione dell'Iran di Khomeini, no? E quindi sono responsabilità che vanno dichiarate, perché altrimenti viene fuori un Occidente democratico con la coscienza politica pulita, che si batte per i diritti umani e contro la violenza sulle donne, e questo è alquanto ambiguo, una posizione molto pericolosa. E poi vabbè, non parliamo del razzismo proprio che impregna questo estratto, ma tutto l'articolo in generale, fa parte proprio di quell'atteggiamento interventista civilizzatore, sì. Nel tipo noi dobbiamo combattere gli estremisti islamici per salvare gli islamisti moderati, quelli buoni prima di tutto, quindi noi non lo facciamo neanche tanto per noi quanto andiamo a salvare loro. Tanto è vero che c'è sempre il concetto dell'islamico, comunque del migrante, dell'immigrato, dello straniero eccetera, che si integra, sì. Allora quello che si integra, che poi significa che accetta la nostra cultura e i nostri percorsi. Beh, vedi il poliziotto che è morto durante l'attentato a Parigi, certo. È diventato un'icona anche, sì, sì, sì, anche sì. Lui, sì, e dai migranti, comunque dai gli stranieri o comunque dagli islamici, in questo momento dagli islamici, perché il problema per l'Occidente secondo lui sono gli islamici, si vuole l'adeguamento ai nostri valori, questo sì, significa, sì, sì. Integrazione, cioè il cambiamento che c'è stato secondo me è che prima si andava magari direttamente coi carri armati, oggi si pratica la via della diplomazia, dei diritti umani, sì, esatto, è il, sì, grimaldello, come lo chiamavi tu prima, dei diritti umani. Proseguiamo parlando dei precedenti storici del femminismo alleato dell'imperialismo, insomma, perché le cosiddette femministe borghesi non hanno anche loro la loro storia. Alcuni esempi ci possono essere dati dagli sforzi del governo coloniale inglese per sradicare il costume la pratica del sati in India, cioè quella che prevedeva che la vedova si immolasse assieme al marito, bruciando sulla pira praticamente. E il governo inglese nel 1813, ecco, per la prima volta lo regolamentò, tra l'altro sottolineando che la pratica poteva essere fatta se era volontaria. Vabbè, sì, cioè, no, non ho parole. E poi qualche anno più tardi è arrivato proprio ad abolirla. Allora è chiaro che nessuno si augura che una si immoli sulla pira del patriarcato, perché il concetto di fatto è questo, però è anche vero che questo non può essere usato da una potenza colonizzatrice per tacciare gli usi, i costumi, la mentalità degli come arretrati, inferiori, e quindi prenderla come ragione per dominarli. Sì, infatti poi il risultato che è venuto fuori da questi sforzi civilizzatori è stato che aumentavano sempre di più le donne che, come atto di resistenza, decidevano di immolarsi su perché scattano dei meccanismi per cui gli usi e i costumi di un popolo, di una gente, eccetera, poi vengono identificati come collante contro l'oppressione, quindi ottenendo poi un risultato contrario a quello che mi vengono in mente, per esempio tutti gli sforzi contro le non mi viene su più la parola, le mutilazioni genitali, sì, no? Sì. Allora, è un meccanismo simile a questo. È chiaro che nessuna è dalla parte delle mutilazioni genitali, per carità, nel senso che è un togliere alla donna una parte di se stessa, ed è anche il risultato di tutta una serie di concetti che una popolazione ha nei riguardi del piacere femminile, della fedeltà, della famiglia, del frutto, quindi dei figli, no? Frutto delle gravidanze, eccetera. Però è anche vero che, per esempio, ci sono stati dei tentativi in Africa, per esempio mi viene in mente Sankara, che aveva iniziato un processo di socializzazione nel suo paese e che una delle prime cose aveva aperto e dato alle donne la possibilità di intervenire su questo argomento, nel senso dato alle donne, aveva iniziato un meccanismo di coinvolgimento nello stato delle donne, e una delle prime cose era proprio questa delle mutilazioni genitali. Ma sappiamo che Sankara è stato assassinato perché è stato rovesciato con colpo di Stato, guarda caso, da parte degli occidentali, perché aveva osato mettere in discussione la restituzione dei prestiti che l'Occidente aveva fatto al suo paese. Di conseguenza all'Occidente non gliene è importato niente dell'operazione di tutela delle donne che aveva iniziato il governo sotto Sankara proprio nei riguardi delle mutilazioni genitali. Non gliene è importato assolutamente niente, salvo rovesciarlo, ucciderlo, rigettare le popolazioni nella miseria più assoluta e più nera, e adesso farsi belli dicendo che lì si fanno le mutilazioni genitali. Cioè, ma è un sempre percorso in sempre in tema. Qualche anno fa, mi pare nel 2004, nel 2005, ci fu un grandissimo scalpore perché un ginecologo toscano di origini africane, non ricordo il paese adesso, aveva proposto di medicalizzare praticamente la pratica dell'infibulazione, però praticando praticamente soltanto una punturina sul clitoride, affinché questa cosa avesse un valore simbolico, strettamente, cioè, simbolico, quindi per mettere al riparo le bambine da tutti i rischi di setticemia, tutti i rischi connessi, insomma. E lo scalpore fu grande, anche lì le polemiche impazzarono, però chiaramente non possiamo pensare che il nostro, cioè, io sono contro la medicalizzazione dei corpi, però allo stesso tempo non posso pensare che il mio rifiuto della medicalizzazione debba essere applicato tale e quale certo, a una donna di una cultura diversa dalla mia. Certo, c'è anche questo, che il nostro pensiero è poi occidentalcentrico, non so come chiamarlo, è occidentocentrico, è la famosa bianchezza abbagliante, che però questa bianchezza abbagliante, ci si ricorda di questa bianchezza abbagliante o non ci si ricorda a seconda della convenienza, ed è questo che non va sì. bene. E poi parliamo tanto di mutilazioni genitali, della barbarie, della pratica dell'infibulazione, però noi in Occidente abbiamo un grande numero di interventi di vaginoplastica. Quella secondo te non è una mutilazione genitale? Soltanto che quella lì è perfettamente integrata nella nostra concezione di cultura, di civiltà, quindi. Sì, ma è un po' il concetto anche sul velo, no? Tutto il discorso che è stato fatto sul velo, specialmente in Francia. Sì, e infatti in questo excursus storico del femminismo imperialista, chiamiamolo così, che stavamo facendo, io avrei parlato appunto delle francesi contro il velo in Algeria ai tempi della dominazione coloniale. E già Frantz Fanon nell'Algerise de Voile, in questo suo libro, parlava del velo usato dalle donne algerine come travestimento per passare inosservate durante la guerra anticoloniale. E poi il governo francese, che attuava le campagne di svelamento, cioè delle cerimonie pubbliche in cui venivano svelate le donne praticamente, e questo con il supporto delle associazioni tra virgolette femministe dell'epoca. E oggi in Francia c'è la stessa diffidenza, cioè ispira molto terrore l'immagine della donna velata. Beh, come se fosse portatrice di un'inciviltà che non si vuole. A proposito proprio di stupro, mi viene in mente che una femminista afghana, adesso mi dispiace non ricordarmi il nome, qualche anno fa aveva parlato del fatto che quando alle donne musulmane, alle donne afghane in particolare, veniva strappato il velo con la forza, venivano obbligate a svelarsi, loro lo consideravano come uno stupro. Sì. Insomma, siamo tornate. Ultimo esempio di quali sono state le antesignane del femminismo borghese, insomma, è quello delle suffragiste americane, e in particolare svelarono il proprio volto quando sorse la questione se dare il voto ai neri oppure no, nel senso che anni siamo più siamo o meno? Durante la guerra di secessione, quindi metà del Settecento. Loro erano le primissime femministe, erano pro abolizionismo. Però quando poi i neri hanno guadagnato la libertà, si fa per dire, perché poi la schiavitù era stata abolita, ma poi era cominciata la schiavitù nelle industrie. Certo. Nel sud comunque i neri continuavano a morire, ma non di fatica, di pogrom praticamente. Certo. All'indomani dell'abolizione della schiavitù, le femministe americane erano contrarie a dare il voto ai neri. Quindi siamo nel 1860 più o meno. Sì, erano contrarie a dare il voto ai neri perché per una questione di diffidenza verso il maschio nero, perché praticamente la donna era la differenza sessuale, era l'unica cosa che importava a Elizabeth Cady Stanton e tutte le sue colleghe. Quindi temevano che una volta che i neri avessero avuto la possibilità di votare, avrebbero usato quel potere contro di loro. E quindi si allearono anche con quelli che erano gli ex schiavisti del sud, i razzisti del sud, per non perdere l'appoggio, per non perdere il sostegno delle femministe bianche del sud, perché la loro priorità era far avanzare, dal punto di vista dei diritti, dell'acquisizione dei diritti, era meglio far avanzare delle bianche istruite piuttosto che dei neri incivili, rozzi, e che probabilmente sarebbero stati ancora più, il loro dominio sarebbe stato ancora più duro verso le donne bianche. Ecco qua, ho trovato la Stanton del 1865-1867. Sì, sì. E poi c'è da dire che le suffragiste non erano soltanto razziste, ma erano anche classiste, perché erano molto lontane dalle rivendicazioni delle bianche lavoratrici. Infatti la loro lotta era incentrata prevalentemente, come sappiamo, sul diritto di voto, e si battevano soprattutto contro la loro vita matrimoniale così opprimente e così via. Però però questa causa per le donne che vivevano già fuori casa, ma perché vivevano praticamente in fabbrica, la loro causa sembrava una causa troppo astratta. E diciamo che, come al solito, non ci dobbiamo mai dimenticare che il femminismo, e quindi l'oppressione delle donne, e il patriarcato comunque sono attraversati dalla classe, dall'oppressione, sì, di classe, che si intrecciano inscindibilmente. Mi pare che questi passi siano stati riportati da Angela Davis, sì, sbaglio? Sì, Bianche e Nere, tra l'altro un libro molto agevole da leggere, molto scorrevole, quindi per chi se lo volesse leggere è consigliato. E niente, quindi le bianche lavoratrici erano molto diffidenti, molto tiepide verso la causa delle borghesi, perché in fin dei conti vedevano che cosa voleva dire avere il diritto di voto ma essere poveri, perché vedevano comunque quello che la realtà quotidiana che vivevano i loro mariti, i loro fratelli, i loro figli, che il diritto di voto lo avevano. Certo. Quindi comunque sapevano che l'uguaglianza politica non voleva dire necessariamente uguaglianza economica. Ci siamo tornate. E mentre durante la canzone, insomma, io mi stavo chiedendo se il classismo delle suffragiste americane di fine 800 di cui abbiamo parlato non ricorda vagamente Se non ora quando, perché anche per loro la discriminante fondamentale è la donna, quindi organizzano questi palchi estremamente compositi dove mettono insieme la suora, Flavia Perina, la fascista di turno, la sinistroide della situazione. E, però allo stesso tempo mi viene in mente la contestazione che fecero le compagne piemontesi alla come si chiama, l'ex ministro del lavoro, alla Fornero, sì, a un convegno di se non ora quando, e lì insomma quando cominciarono a urlare le loro rivendicazioni, la moderatrice insomma fece appello al buon senso, all'educazione, non erano state invitate, la Fornero che dava della giovanotta alla compagna che la contestava, quindi. Ma perché la democrazia occidentale è molto per bene, Sì, è educata. Ed ecco, quindi noi abbiamo aperto la trasmissione parlando dell'eccezionalità, cioè smontando un po' l'eccezionalità dello stupro di guerra, e beh, dobbiamo smontarla anche perché la guerra, in realtà anche la guerra non è più qualcosa di eccezionale, perché con gli ultimi pacchetti sicurezza sono arrivati i militari in città, quindi la figura del militare ce l'abbiamo davanti tutti i giorni praticamente. A questo proposito c'è proprio una notizia che riguarda una vicenda che è successa a Vicenza, in cui un militare americano ha violentato una donna che si chiama Mariana, era una donna anche incinta, e ma al di là di questo l'ha violentata in maniera brutale, diciamo, sì, che mi ricorda lo stupro dell'Aquila. Ecco, che ci ricorda lo stupro dell'Aquila. Oltretutto, cioè, tra l'altro, difendendosi dicendo che questa era una prostituta e aveva fatto una prestazione a pagamento, e quindi era finita male. Era finita male. Allora, oltretutto, che cosa è successo? Che per questo militare, che oltretutto è stato per cui è stata richiesta una perizia psichiatrica nella forma dell'incidente probatorio dall'avvocato americano, perché si voleva appurare la capacità di intendere e di volere di questo 22enne, perché non solo era anche evaso, evadendo dagli arresti, chiamiamoli domiciliari perché gli avevano dato gli arresti domiciliari all'interno della base, aveva di nuovo violentato e picchiato altre 4 donne. Beh, a me a questo proposito mi verrebbero da fare 2 commenti. Il primo è che hanno messo i militari in città con il pretesto della maggiore sicurezza. In realtà lo scopo era quello di proteggere le donne italiane dagli stupratori clandestini, quindi la componente razzista, uno. Secondo, i militari non hanno portato per niente sicurezza, perché pensiamo a questo episodio, pensiamo allo stupro dell'Aquila e pensiamo allo stupro che è del successo Quadrano, qua a Roma, anche Quadrano, alla caserma, esatto, del Quadrano. E poi quello che dicevi tu a proposito della perizia psichiatrica, già dopo con i reduci del Vietnam, il disturbo post-traumatico da stress è diventato un escamotage per assolvere praticamente i militari dalle accuse di stupro, insomma. Certo, che invece praticamente le mettevano in tutto il calderone, certo, di tutte le violenze, quindi traumi, brutalità varie, e invece fa parte proprio del pacchetto mentale di qualcuno che accetta di essere militare, e quindi c'è un atteggiamento di dominio nei confronti. Sì, ma questo va proprio a oscurare la componente specifica di genere che, certo, dello stupro in guerra, dello sì, stupro sì, in generale. Sì, certo. No, ma io con dicevo che anche trauma. Certo. No, infatti, proprio per questo a Vicenza ci sarà un sit-in, un volantinaggio, anzi c'è stato, diciamo, mercoledì 4 febbraio, che oggi alle 13 al vecchio tribunale civile, proprio per contro questo tentativo di far passare il militare per fuori di testa, perché chi stupra è sempre o fuori di testa, chi uccide una donna è ubriaco o è vittima di qualche raptus improvviso, no? Delitto passionale. C'è sempre una motivazione che non comporta mai la responsabilità di fondo dell'atto in sé, no? Vai. E poi sì, tra l'altro i militari non hanno portato più sicurezza, anzi, ma direi che anche prima le divise non è che garantissero tutta questa sicurezza, insomma, è una realtà molto invisibilizzata, se ne parla ogni tanto, sai, come nelle come per le visite nei CIE, ogni tanto ci si ricorda che ci stanno e allora si fa la visita al CIE. E allora ogni tanto si parla delle violenze che subiscono le prostitute dalle guardie che le fermano. Certo. Quindi che le, insomma, praticamente estorcono prestazioni sessuali per chiudere un occhio sul permesso, certo, di soggiorno che non hanno, eccetera. Perché diciamo che succede anche questo meccanismo, che di tutte le situazioni di sottomissione e di soggezione in cui sono ricacciate le donne, chiamiamole comuni, le prostitute da una parte, le migranti dall'altra, le trans sono in una condizione doppiamente inferiore, doppiamente vulnerabile, e anche la violenza nei loro confronti è doppiamente diciamo disgustosa, se vogliamo usare un termine di pancia, ma che ci viene facile. Sì, io poi ho parlato di questa cosa come un cambiamento degli ultimi anni, ed è giusto, perché sono state attribuite funzioni di ordine pubblico a personaggi che sono abituati a lavorare in scenari di guerra, che sono scenari ben diversi da quelli metropolitani, per esempio. C'è però quel famoso progetto della NATO Urban Operation 2020, che prevede l'uso dell'esercito nei paesi occidentali per sedare le sommosse e le rivolte dovute a una condizione di vita che è diventata inaccettabile anche qua. Quindi il fronte interno e il fronte esterno si stanno avvicinando sempre di più in realtà. Allora, vi volevamo leggere appunto il comunicato di cui vi parlava prima Eli, scritto dalle Lucciole di Pordenone, con Mariana. Invitiamo la cittadinanza di Vicenza, in modo particolare le donne di questa città, ad unirsi a noi per chiedere e vigilare affinché il gravissimo fatto accaduto lo scorso 15 luglio a Vicenza non sia insabbiato o sminuito da una sentenza che, come già accadute troppe volte nel nostro paese, sia segnata dal maschilismo e dalla sottovalutazione dell'accaduto, perché a subirlo è stata una donna povera, giudicata dalla morale e del permenismo bigotto. Gray Gerella Marcus, un giovane militare USA della caserma dal Molin, ed Edil McHugh sono accusati di aver stuprato per ore e ferocemente picchiato Mariana nella notte del 15 luglio scorso. Mariana era incinta. Circa un anno prima dall'aggressione, Gray Gerella Marcus era stato accusato per stupro di una ragazza minorenne. A luglio, nonostante questo precedente, la procura ha ritenuto sufficienti per gli accusati gli arresti domiciliari all'interno della caserma, e così, a distanza di soli alcuni mesi, in dicembre il militare è riuscito ad evadere ed è stato nuovamente denunciato con l'accusa di aver tentato di ottenere una prestazione sessuale da un'altra prostituta, anch'essa incinta, aggredendo sia lei sia un'altra donna. Per Mariana, sdegno iniziale e promesse non mantenute. Dopo la feroce aggressione a Mariana, si sono subito mobilitate associazioni femminili e alcuni comitati con dichiarazioni, sit-in e offrendo supporto alla difesa legale della donna. Il sindaco di Vicenza, nonché presidente della provincia, Achille Variati, subito dopo l'orribile fatto che aveva attirato l'attenzione dei mass media, fece tante promesse di aiuto alla donna e al suo bambino, che nel frattempo è nato. Promesse che sono rimaste vuote parole. Ora sembra che si voglia liquidare tutta la questione, giustificando il militare in quanto, secondo la difesa, sembra non fosse capace di intendere e volere. E il silenzio sta cadendo su questo terribile episodio di violenza. Ci rivolgiamo alla cittadinanza di Vicenza, in modo particolare alle donne, per vigilare insieme sul processo perché sia fatta giustizia. Chiediamo che il sindaco mantenga le promesse e aiuti il nucleo familiare di Mariana, non solo lei e il bambino, ma anche il papà del bambino, perché la povertà non deve essere motivo di ricatti e di divisione dei nuclei familiari, come sempre succede normalmente a Vicenza, dove i pochi aiuti, ad esempio una struttura dove vivere in mancanza di un lavoro, di casa e di un lavoro, sono offerti solo alle mamme e ai figli, escludendo i padri ed esponendo le famiglie in gravi difficoltà economiche al trauma della separazione proprio nel momento di maggior difficoltà. A fianco di Mariana e di tutte le donne stuprate, nella notte del 15 luglio scorso, lo stupro e le percosse che Mariana ha subito sulla sua pelle sono uno stupro e una violenza di cui dovrebbe sentirsi vittima ogni donna. Il fatto che Mariana faccia la prostituta, argomento adotto ipocritamente da diverse persone per giustificare o sminuire il crimine da lei subito, non deve e non può mettere il silenziatore alla sua giusta indignazione, alla solidarietà, alla mobilitazione necessaria affinché questi episodi non debbano più ripetersi. Ci rivolgiamo a tutte le donne, a tutti gli uomini, a tutte le associazioni e comitati di donne che già si sono attivati e a quelli che non l'hanno ancora fatto, per costruire un fronte unico di lotta a Vicenza e anche fuori di Vicenza, che vigili su questo processo e si ponga come obiettivo quello di contrastare tutte le forme di violenza sulle donne. Allora, ringraziamo tantissimo Roberta. Grazie a voi. E aspettiamo che metta tutte queste cose per iscritto. Sì, perché le vogliamo assolutamente. Beh. Perché oltretutto c'è spazio anche per un sacco di altre discussioni, altri approfondimenti. Quindi mettendole per iscritto ci fai un grande favore. Va bene, la salutiamo e l'avremo qui presto, magari un'altra volta. E noi intanto diamo tutti i nostri indirizzi. Allora, coordinamenta.noblogs.org per leggere i documenti, per risentire le trasmissioni e per vedere tutto il nostro materiale.